cries in my face again. I can talk to myself, I can say that's okay. Run away with my mind, waiting for the green light. I'm still trying to say goodbye. Say goodbye for the last time. Live without you, I can't live without you. Live without you, I can't live without you. I can walk all along, I can say that I'm strong. I can sleep with another girl, but miss another one. I can turn off the phone, singing my pain alone. Run away with my mind, waiting for the green light. I'm still trying to say goodbye, goodbye, say goodbye for the last time. Live without you, I can't live without you. Live without you, I can't live. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono e lo ricordo stasera ospiti della Ravennate e Super Lovers. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD On the Road to You, come il primo che è andato in onda. Titolo? Goodbye. La vostra esperienza durante la registrazione e quali idee musicali che hanno poi realizzato questo CD? Allora, siamo partiti prima di tutto con una pre-produzione, perché abbiamo sempre suonato i pezzi in sala prove, quindi c'era un sound, un volume veramente molto alto, quindi volevamo sentire anche dalla poltrona i nostri suoni, capire esattamente quello che volevano trasmettere. Certo. Con questa pre-produzione poi siamo andati in uno studio da un ingegnere del suono che è Luca Bignardi, che ci ha tirato fuori le idee dalla testa, perché non sempre quello che pensi è quello, certo, che poi realmente sempre comunque una persona che ti diriga all'interno di uno studio. È stato molto bello, abbiamo lavorato, sì, come diceva Davis, da Luca, alcune cose fatte da Luca, alcune cose fatte a casa, remixato un pochettino tutto lì in varie sedute, ecco. Comunque abbiamo fatto 40 take di batteria in un giorno, che il batterista era steso per terra con una flebo. Tutti stesi. Chitarre a casa, che Fabio è un ingegnere del suono praticamente, quindi ci provo, dai. No. Voci in studio e mixaggio super in studio. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Far Away From You. Close to you, I answers to all my why. Now you lie to me. And now I scream to wash away your last bad word. Ancora con i Super Lovers, recensioni, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album? Allora, abbiamo avuto diverse recensioni, interviste, articoletti, articoli in quotidiani locali. La più lusinghiera probabilmente è quella di Rockerilla, è quella che è andato più a fondo con il sound e con l'idea che avevamo in testa. Ci hanno detto anche che dobbiamo essere più presuntuosi, forse alla fine del disco abbiamo capito che potevamo osare di più. E allora, prossima track. La prossima track è Julie, per la tua gioia. Allora noi torniamo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i Super Lovers. Rimanete ancora su Radio RCS. She already smokes cigarettes. She dresses like a princess. She starts the French kiss. She's always bored. She answers, I don't care. I hope she won't to see the world with new eyes. Maybe she comes from the rock store. Maybe she comes from the rock store. Judy is 16. And now she likes the smoke pot. And she's moving on the wrong way. And she has already made love. missing on his skin and some fucking hidden tattoo. She wears designer dresses. She's massive.